un'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddie, eccoci qua in diretta con l'altra Europa, 8 minuti dopo le 12 per raccontarvi come ogni settimana briciole europee, l'Europa delle possibilità, delle opportunità, l'Europa che comunque ci piace raccontare, oltre ovviamente l'attualità economica e politica che viene narrata giorno per giorno qui a Radio 24, un programma in collaborazione con il network Euronet Plus, le coordinate digitali per trovarci anche in rete, radio24.it ovviamente, oppure il sito euronetplus.eu. tante notizie, tante reportage in tante lingue diverse, e poi ancora chiocciola Euronet Plus R24, oppure chiocciola Federico Taddie, gli account Twitter e Facebook su cui potrete trovare tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Ci siamo? Ogni settimana un viaggio, oggi si parte da Bruxelles. Je te connaissais pas encore, notre aventure vaudrait de l'or. Si on se rencontrait à peine, mon amour, quelle aubaine. J'aurais la langue délicieuse, j'aurais une part de moi milleuse que j'aurais pugne désormais. Oh mon amour, qu'avons-nous fait? Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celles qui restent plantées à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Bruxelles, cuore d'Europa, Bruxelles blindata, Bruxelles che dopo gli attacchi di Parigi è stato al centro di paure, è stata al centro di blitz, la stampa mondiale con gli occhi puntati su Bruxelles. Poi, come sempre accade, perché comunque il giornalismo è anche questo, un po' scema l'attenzione, la vita, la quotidianità invece continua, e quindi noi abbiamo scelto di tornare a Bruxelles per capire com'è vivere oggi a Bruxelles. Lo facciamo insieme a una studentessa che ha scritto molto in queste settimane proprio per raccontare la sua Bruxelles. Diamo il benvenuto a Camilla Giannoni, studentessa del corso di giornalismo alla Robert Gordon University di Aberdeen, Regno Unito, che sta facendo una sorta di Erasmus, se non erro, a Bruxelles. Ciao Camilla. Buongiorno, ciao. Ciao. Stai facendo Erasmus? Perché non ho capito la tua mobilità studentesca, che mi sembra molto attiva. Sì, sì, ora sono qua per l'Erasmus fino a fine gennaio, però normalmente, come hai detto, studio in Scozia. Ok, e stai studiando giornalismo? Sì, perfetto. Sì, esatto. Tu sei di Parodi Ligure? Parodi? Sì, che è un paesino minuscolo in Piemonte. Ok. Allora Camilla, tieni un blog che si chiama camillaspeak.wordpress.com, questo è l'indirizzo dove stai raccontando un po' la tua avventura, il tuo Erasmus, il tuo studiare all'estero. In particolare, per ovvi motivi, in queste settimane ti sei concentrato su Bruxelles. Che cos'è Bruxelles oggi? Allora, oggi la città, diciamo che è tornata alla normalità. È molto diversa rispetto a quando avevo scritto il mio ultimo articolo, che era stato scritto proprio durante i giorni in cui Bruxelles era completamente bloccata, quando c'è stata l'allerta 4 per il terrorismo, cioè dal sabato 21 a martedì 24 novembre. Sì. Adesso diciamo che la gente ha ripreso la propria quotidianità, la metro ha riaperto, le scuole hanno riaperto, e quindi le persone continuano a vivere normalmente. Però rispetto a prima ci sono molti più, cioè un dispiego di forze di polizia e anche l'esercito molto maggiore rispetto a prima degli attacchi di Parigi. Mm-hmm. E ad esempio all'ospedale, io vivo vicino all'ospedale e qui c'è sempre un camioncino dell'esercito con almeno 3 o 4 soldati, mentre prima non si era mai visto. E nella via principale, la Rue Neuf, che è la via, diciamo, dei negozi più commerciali, più abbordabili, sì, che è sempre affollata, anche lì una macchina della polizia all'inizio e una alla fine ci sono sempre per tenere sotto controllo la situazione, e poi nelle stazioni della metro. Tu hai cambiato le tue abitudini, hai cambiato la tua quotidianità? Durante i giorni in cui la città era bloccata, sicuramente sì, perché appunto l'università ha chiuso e quindi non sono neanche andata a scuola. Poi perché volevo vedere come fosse, appunto per scrivere un articolo, anche perché ero curiosa, non avendo mai vissuto una situazione del genere. Di domenica sono andata in città, perché io abito un pochino fuori e quindi qua, essendo un quartiere residenziale, si chiama Yette, a nord di Bruxelles, essendo un quartiere residenziale la differenza non si è molto sentita, però il centro era deserto e c'erano tutte le casette del mercatino di Natale, che non si sapeva cosa sarebbe successo e non sapevano se aprirlo o no. Quindi la città comunque era deserta in quel periodo. Camilla, in questo articolo, ricordo che potete leggerlo in camillaspeaks.wordpress.com, a un certo punto appunto racconti di questo 1.200.000 persone di fatto chiuse in casa e dici: manca l'anima della città. Qual è l'anima di Bruxelles? L'hai colta in questi mesi che stai vivendo la città? Sì, credo di sì. È uno degli aspetti che mi ha colpito di più della città da quando sono arrivata, è stata la varietà di persone che la popolano, perché veramente io non avevo mai visto una così tanta diversità, proprio a livello di etnia, provenienza, lingue parlate. Cioè, già il Belgio ha 3 lingue ufficiali, quindi comunque si sentono differenze grandi anche tra persone che vivono appunto nello stesso paese. Però poi ci sono anche tanti come me che sono venuti da fuori e tutti convivono in modo, diciamo, pacifico, regolare. E non, all'inizio per me è stato, diciamo, notavo tanta differenza, ma poi alla fine vedi che le persone sono tutte uguali, cioè comunque fanno tutte le stesse cose, hanno tutti più o meno le stesse abitudini e non ci si fa nemmeno più caso, e secondo me è questo il bello della città. Grazie Camilla per la tua testimonianza, in bocca al lupo per i tuoi studi, ciao e buon sabato. Ok, grazie mille anche a voi. Ciao. Arrivederci. Noi ci fermiamo in Europostit, il traffico, poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. Stage Eurodesk. Sei alla ricerca di uno stage? Ti piacerebbe fare un'esperienza lavorativa all'estero? Eurodesk cerca giovani web editor per uno stage retribuito di 6 mesi nella produzione di contenuti per il portale europeo dei giovani. La sede di lavoro sarà Bruxelles, nell'ufficio di coordinamento della rete europea di Eurodesk. I contributi per il portale dovranno essere redatti in inglese. La call è aperta a giovani che abbiano una formazione nella comunicazione, nel giornalismo o nelle relazioni internazionali. Il candidato deve avere un'eccellente conoscenza dell'inglese, esperienza con Content Management Systems e conoscenza base di HTML. Candidature entro il 13 dicembre al sito jobs.euractiv.com. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta l'altra Europa. Ancora l'altra Europa con Federico Taddia e diamo il benvenuto al prossimo ospite. Cambiamo completamente argomento, parliamo di sfruttamento dei migranti, lo facciamo con Emanuele Galossi, coordinatore del progetto per la Fondazione Giuseppe Di Vittorio. Buongiorno Galossi. Buongiorno a lei. Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, un progetto di cui lunedì a Roma verranno presentati i risultati, un progetto che si chiama Agri, cofinanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma che finanzia azioni di ricerca e formazione nel campo del contrasto alla tratta e allo sfruttamento. Di cosa si tratta e cosa avete studiato? Allora, intanto grazie per l'opportunità di raccontare questo progetto. Il progetto è appunto, diciamo, intende in qualche modo fornire degli strumenti per favorire la lotta contro il grave sfruttamento dei lavoratori stranieri, nello specifico in agricoltura. Sì. E diciamo l'approccio è stato quello dell'attività di ricercazione, quindi i risultati possiamo dire che sono i due tipi: da un lato una maggiore conoscenza del fenomeno nei 3 paesi oggetto di studio, che sono l'Italia, la Spagna e la Romania, e dall'altro invece delle azioni territoriali in aree specifiche di queste tre nazioni, che sono, diciamo, legate all'attività di formazione, di networking e di sensibilizzazione un po' della società civile. Italia, Romania, Spagna, realtà molto diverse tra di loro, esatto. Però con dinamiche simili per quanto riguarda lo sfruttamento dei lavoratori? Assolutamente sì, soprattutto, diciamo, Italia e Spagna hanno delle caratteristiche molto, molto simili, perché sono paesi anche di forte immigrazione, e a differenza invece della Romania, che è un paese ancora soprattutto di emigrazione. Tant'è che il caso della Romania, diciamo, è stato studiato in maniera particolare, perché da un lato ovviamente abbiamo ragionato, soprattutto i colleghi degli istituti rumeni hanno ragionato sullo sfruttamento dei lavoratori all'estero, ma anche dei lavoratori rumeni in Romania, in particolare aree di agricole, quindi a forte tensione agricola. Galossi, ma come si studia il fenomeno? Nel senso, c'è tanto omertà, lo sappiamo, certo. C'è omertà negli attori protagonisti, c'è paura nel chi è sfruttato, però preferisce a volte essere sfruttato perché quella manciata di euro sono l'unica fonte di sostentamento. Come si vanno a raccogliere i dati? Come si fa? Effettivamente, come dice lei, è molto complicato, è stata un'indagine molto complicata. Da un lato ovviamente abbiamo individuato dei territori, abbiamo fatto una sorta di mappatura dei tre paesi per cercare dei territori che avessero delle caratteristiche interessanti da studiare. Per l'Italia in particolare abbiamo approfondito lo studio sull'area dell'Agropontino. Sì. E allora, da un lato ci siamo affidati a quelli che vengono definiti testimoni privilegiati, ovvero persone che in qualche modo lavorano sul campo, su questi temi, che ci hanno, diciamo, dato delle indicazioni di massima. E poi abbiamo parlato con i lavoratori, appunto, sfruttati, con enorme difficoltà, come appunto veniva detto, perché c'è molta paura, alcune persone, diciamo, non sono ancora in regola da un punto di vista del soggiorno, e quindi c'è ovviamente difficoltà. Nonostante questo, diciamo, penso che abbiamo ottenuto dei risultati interessanti di indagine. Certo. E devo dire che il territorio dell'Agropontino, noi quando abbiamo, diciamo, iniziato questo progetto, che è più di 2 anni fa ormai, era un territorio, diciamo, studiato ma fino a un certo punto. Negli ultimi anni, devo dire, non so se anche grazie al nostro contributo, ma sicuramente perché è un territorio particolare, si sono succeduti numerosi studi che hanno confermato un pochino quello che noi poi abbiamo individuato. Vi ricordo che tutti i dati verranno presentati il 14 dicembre a partire dalle ore 9 presso la sede della CGIL Nazionale Corso d'Italia 25, Sala Santi a Roma, www.agriproject.eu, il sito per conoscere nei dettagli l'intero progetto, appunto, di cui era capofila la Fondazione Giuseppe Di Vittorio. Abbiamo avuto con noi Emanuele Galossi. Grazie Galossi, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Europost-it. La cittadinanza in Europa dall'antichità ad oggi. La Fondazione Calabria Roma Europa organizza a Santa Severina, in provincia di Crotone, la mostra La cittadinanza in Europa dall'antichità ad oggi, volta a illustrare il concetto di cittadinanza nel corso delle differenti epoche, dal periodo greco-romano fino all'età moderna. I 20 pannelli della mostra espositiva analizzano i processi storici che, a partire dalla democrazia in Grecia, attraversano i secoli fino alle rivoluzioni e alla nascita delle moderne nazioni. La sezione finale della mostra si concentra invece sui trattati dell'Unione Europea che istituiscono la cittadinanza europea, esaminandone diritti e prerogative. Per informazioni e orari, cercate la mostra La cittadinanza in Europa dall'antichità ad oggi tra gli eventi del sito politicheeuropee.it. Blue sea. visit. È un batterio, si chiama Silella. Abbiamo imparato a conoscerlo in questi mesi per i danni reali che sta facendo nel Sud Italia in particolare. E di Silella se ne è parlato un paio di giorni fa, c'è stata questa sorta di messa in mora da parte dell'Unione Europea che dice l'Italia non sta facendo abbastanza per contenere il batterio. Unione Europea, Commissione Europea che ha emanato delle direttive anche contraddittorie. E in risposta a queste direttive è nato un movimento di protesta, ma una protesta non fine a se stessa, è una protesta costruttiva di chi però non si limita a voltare le spalle all'Europa, ma vuole fare controproposte, vuole capire, vuole farsi sentire. Abbiamo con noi Marilu e Mastro Giovanni, giornalista e autrice di Silella Report, proprio per capire insieme a lei cosa sta succedendo appunto in risposta a queste richieste europee. Buongiorno Marilu, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno a tutti, grazie per aver dato spazio a questa parte dell'informazione pugliese. Io direi che dovremmo partire da premesse sbagliate. Tu sì. Hai detto che il batterio sta creando gravi danni all'agricoltura pugliese. Mm-hmm. È sbagliata la premessa, non c'è nessuna prova ad oggi di patogenicità del batterio sugli ulivi. Dopo 2 anni di prove scientifiche in laboratorio, ancora non si è riusciti, il CNR di Bari non è riuscito ancora a provare la causa diretta tra la presenza del batterio Xylella fastidiosa sugli ulivi e il loro disseccamento. Quel che si sa, e questo è gravissimo ovviamente, perché nonostante non ci sia alcuna prova di patogenicità, comunque sono state prese delle decisioni drammatiche, drastiche nei confronti dei cittadini, anche del diritto dei cittadini di autodeterminarsi. Per esempio è vietato piantare gli alberi d'ulivo in Puglia. È obbligatorio estirpare gli alberi infetti e gli alberi sani nel raggio dei 100 metri rispetto all'albero infetto e non si possono più ripiantare. Per contro è possibile edificare laddove prima in passato era complicato. Quindi si stanno davvero allargando le maglie della legge a tutela degli ulivi, si stanno consentendo edificazioni selvagge. Recentemente il Consiglio regionale pugliese ha bocciato una proposta di legge avanzata dal consigliere regionale Sergio Blasi, diciamo è l'ideatore della notte della Taranta, una persona che sul territorio si è impegnata molto per valorizzare l'identità del popolo salentino e pugliese, e aveva proposto una modifica di questa legge scellerata che è stata approvata nel 2014 dal Consiglio regionale. All'epoca il Presidente della Giunta era Nichi Vendola, che consente di fatto di edificare, perché vieta l'edificazione solo laddove si siano sradicati alberi monumentali, che sono pochissimi quelli censiti in Puglia, sono milioni in realtà, ma quelli censiti, diciamo quelli che hanno il certificato di monumentalità, sono molto pochi. Anche qui per una serie di motivi che potremmo analizzare. Sì, bocciata. Marilu, ti chiedo scusa, appunto c'è questo gruppo di cittadini, associazioni, tra cui anche WWF Italia, riuniti in questo momento, cosa state chiedendo di fatto all'Europa? I ricorsi sono due. Uno, l'ultimo in ordine di tempo, è quello appunto capeggiato, diciamo, come primo firmatario il WWF, sì, insieme ad altre associazioni, comitato per esempio contro le devastazioni ambientali, il forum terzo settore e anche privati cittadini. Chiediamo, o meglio, quello che si obietta è che la decisione di esecuzione dell'Unione Europea, che impone di sradicare le piante sane nel raggio dei 100 metri, per intenderci una porzione pari a 3,5 ettari, cioè per un albero positivo a xylella si deve desertificare un pezzo di territorio pari a 3,5 ettari. Noi contestiamo questa decisione perché è una decisione che viola i principi di sussidiarietà, di precauzione, di proporzionalità. E, di fatto si prevaricano i poteri dello Stato italiano, la UE, l'Unione Europea si è sostituita allo Stato italiano e ne limita il potere sovrano, perché fissa delle misure operative di contrasto al diffondersi del batterio della xylella che devono essere decise dallo Stato all'interno di un quadro normativo che è stato fissato nel 2000 dall'Europa, cioè questa direttiva, la 29 del 2000 dell'Unione Europea, che dà i paletti entro cui muoversi, però che cosa fare rispettando quei paletti lo deve decidere lo Stato membro su suggerimento dei territori, quindi della Regione Puglia in questo caso. È vero che la Regione Puglia e lo Stato italiano sono stati latitanti, perché se andiamo a guardare che cosa ha fatto la Regione Puglia ci accorgiamo che in questi ultimi due anni c'è stato un grande movimentismo, una proliferazione anche di norme, di atti deliberativi, come si dice a Napoli, è stato fatto a muina, cioè è stato fatto tanto per non fare nulla. Okay, e quindi è stata latitante la Regione Puglia e lo Stato italiano. La Unione Europea a un certo punto ha detto basta, decido io, dovete sradicare, però questo non lo poteva fare. È chiaro. Chiara posizione, ricordiamo allora xylellareport.it è il sito per conoscere insomma tutta l'attività e tutto ciò che sta chiedendo il movimento. Ci sembrava comunque giusto dare voce, perché parlare d'Europa è anche questo, è comunque dare risalto e dare spazio a chi cerca risposte dall'Europa, a chi vuole farsi sentire, a chi vuole anche cambiare regole che non ritiene comunque giuste e corrette. Non dimentichiamo che gli ulivi secolari e millenari pugliesi rappresentano l'identità di un'intera regione. Quindi fanno parte del paesaggio, quello che è stato deciso a livello europeo e anche dello Stato italiano lede anche la Convenzione europea sul paesaggio, non si possono sradicare gli ulivi. Grazie, buon lavoro, ciao Marilu. Grazie a voi. Un Europostit, la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit, piattaforma dei centri giovanili. Come ogni anno, dal 23 al 25 febbraio, avrà luogo la 7ª piattaforma europea dei centri giovanili. L'obiettivo è la condivisione di conoscenze tra i centri giovanili interessati ad acquisire l'etichetta di qualità per i centri giovanili del Consiglio d'Europa. L'evento è dedicato anche a manager e staff dei centri giovanili che intendono aderire agli standard di qualità e non all'etichetta, ai decisori politici che intendono creare un centro giovanile seguendo la filosofia del Consiglio d'Europa e ai rappresentanti dei Ministeri nazionali della gioventù che sostengono un centro giovanile selezionato e che partecipano come esperti. L'evento si svolgerà a Lisbona. Vitto e alloggio saranno a carico del centro giovanile della città. Candidature entro l'11 gennaio 2016 al sito eurodesk.it. L'altra Europa. I got rights, you got rights, we've all got rights, we've all got rights. Gotta have a home, gotta be well fed, have a place to learn and rest your head. We've all got rights, we've all got rights. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa, @ Federico Taddia per trovarmi su Facebook e Twitter e lì poter ritrovare poi tutti i link relativi agli argomenti che stiamo toccando. Parliamo di diritti, ora lo facciamo con questa canzone per bambini che, come sempre, con le semplicità, insomma, sono i migliori testi per parlare di cose complicate. Parliamo di diritti e lo facciamo, abbiamo il piacere di avere qua con noi la neodirettrice dell'ufficio di Venezia del Consiglio d'Europa. Diamo il benvenuto a Luisella Pavan Wolf. Buongiorno Pavan. Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, capiremo fra un attimo perché parliamo di diritti, ma intanto, insomma, facciamo un breve riassunto. Ricordiamo cos'è il Consiglio d'Europa e soprattutto perché c'è un ufficio a Venezia. Il Consiglio d'Europa è la più antica organizzazione politica europea. È stata istituita il 5 maggio del 1949 da 10 paesi fondatori. Attualmente 47 stati membri fanno parte del Consiglio d'Europa. L'obiettivo principale dell'organizzazione è di garantire la dignità dei diritti dei cittadini europei, quindi il Consiglio d'Europa vigila su democrazia, diritti umani e primato del diritto sul continente europeo. E appunto c'è una questa sede che è l'unica sede nazionale a Venezia, e come mai è stata scelta proprio Venezia e soprattutto che funzioni ha una sede nazionale? E come lei diceva, il Consiglio d'Europa ha scelto Venezia come sua unica sede italiana. Questo anche perché Venezia è una città significativa, non solo dal punto di vista culturale e artistico, ma anche per quanto concerne una tradizione di vivere insieme, di interculturalità. Venezia l'abbiamo vista come ponte tra una sponda e l'altra del Mediterraneo, come città chiave nei rapporti con l'Oriente. Quindi per noi ha un significato particolare questo aver scelto Venezia come unica sede del Consiglio d'Europa in Italia. Sede anche della riunione della Commissione Europea per la democrazia attraverso il diritto, c'è stata una prima sessione di lavoro il 23-24 ottobre, adesso il 18 e 19 dicembre prossimi, appunto il prossimo incontro. E qual è il cuore di queste riunioni? Mi piacerebbe capire anche, al di là della formalità, al di là delle belle parole, mi permette di dirlo, si riesce ad essere incisivi con un organo come il Consiglio d'Europa? Beh, senta, direi, le rispondo prima di tutto sulla Commissione di Venezia, sulla Commissione Europea per la Democrazia attraverso il diritto. E le do forse qualche esempio su cosa la Commissione sta lavorando attualmente e su cosa si pronuncerà quando si incontrerà a Venezia la settimana prossima. Dunque, all'ordine del giorno avrà cose come gli emendamenti costituzionali in Albania, quindi darà un parere su questi emendamenti. Guarderà anche alla legge sulla libertà religiosa in Montenegro. Sì. e a una legge sulla corruzione, su come combattere la corruzione in Tunisia. Dunque, su questi tre argomenti la Commissione darà delle opinioni. Lei come sa, questo organo è un organo altamente rispettato, composto da esperti indipendenti di altissimo livello. Abbiamo costituzionalisti, membri di parlamenti, abbiamo professori universitari, quindi quando la Commissione di Venezia dice qualcosa, in genere gli stati seguono il parere. Quindi la Commissione di Venezia si pronuncia su questioni che sono veramente fondamentali per la vita politica democratica nei paesi che si rivolgono ad essa. Certo. Lei mi ha poi chiesto se il Consiglio d'Europa, a parte le belle parole, riesce a fare qualcosa di concreto. Sì. Probabilmente l'organo che è più conosciuto del Consiglio d'Europa è la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, organo che siede a Strasburgo, un organo giudiziario che può essere adito sia dagli stati che dai singoli individui indipendentemente dalla loro nazionalità, quindi è poi un organo che ha le sue sentenze hanno valore vincolante per gli Stati membri. Quindi se lei, oddio, pensiamo di andare a Strasburgo per far riconoscere e garantire i nostri, un diritto che ci sembra essere stato calpestato dallo Stato membro in cui viviamo, in cui ci troviamo, possiamo andare a Strasburgo e quello che la Corte dirà dovrà essere rispettato dallo Stato membro. E adesso appunto ha questo importante ruolo, ma già in passato è stata ambasciatore della Comunità Europea al Consiglio d'Europa, consigliere principale del Servizio Europeo per l'Azione Esterna. E Pavan, è ancora follemente innamorata di questa Europa? Oh, assolutamente, penso che soprattutto in momenti come questi, che sono momenti difficili per l'Europa, che dobbiamo aver fiducia nell'Europa, dobbiamo dirci che soltanto attraverso più Europa riusciremo a vincere le difficoltà che stiamo passando, che vanno dal terrorismo all'emergenza immigrazione. Per riuscire a fare qualcosa e uscire da queste difficoltà dobbiamo essere uniti, più uniti di quanto lo siamo ora, e quindi fare più Europa di quanto non abbiamo attualmente. Vi ricordo i siti di riferimento, il sito del Consiglio d'Europa che è www.coe.int, oppure il sito della Commissione di Venezia che è www.venice.coe.int. Ringraziamo Luisella Pavan Wolf e buon lavoro e in bocca al lupo per la prossima sessione della Commissione di Venezia. Grazie a lei, arrivederci. Europostit. Premio Carlo Magno. Hai tra i 16 e i 30 anni e lavori a un progetto dotato di una dimensione europea? Anche quest'anno il Premio Carlo Magno della Gioventù ricompensa i progetti che favoriscano la comprensione, promuovano un sentimento comune dell'identità europea e diano esempi pratici di cittadini europei che vivono insieme come un'unica comunità. Il Premio Europeo Carlo Magno, giunto alla sua nona edizione, viene assegnato ogni anno dal Parlamento Europeo congiuntamente alla fondazione del Premio Internazionale Carlo Magno di Aquisgrana e a monta alla somma di 5.000 euro. Oltre al premio in denaro, i vincitori saranno anche invitati a visitare il Parlamento europeo. Hai tempo fino al 25 gennaio 2016 per registrarti all'edizione 2016 sul sito charlemagneyouthprize.eu. Questi sono i nostri Europost e vi ricordo che li potete ritrovare sul nostro sito radio24.it, da lì potete scaricarvi la puntata e trovare anche tutti i contributi extra nelle pagine dell'Altra Europa. Ora ci fermiamo, il traffico poi ancora qua, in diretta. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi ti conviene. Vi presenta l'Altra Europa. Songs and melodies change and change and sway, but they still stay the same. The songs that we sung when the dark days come are the songs that we sung when we chased them away. If I ever found a pot of gold, I'd buy bottles untold of the nectar of the vines, 'cause I'm gonna die with a twinkle in my eye. I sang songs, spun stories, love, laughed and drank wine. Tomorrow is another day. The cats are out to play, to play. That old rusty spaceship wants to sail into the Milky Way again on a river. Con questa canzone celebriamo un riconoscimento, che è andato a Conegliano Valdo Biadine, capitale della cultura enologica europea 2016, l'annuncio a Rečevin, la rete comunitaria delle 1000 città del vino riunite per l'occasione nella sede del Parlamento europeo a Bruxelles pochi giorni fa. Abbiamo il piacere di avere con noi Floriano Zambon, sindaco di Conegliano Veneto. Buongiorno Floriano. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a voi. Beh, un riconoscimento importante. Direi di sì, è un riconoscimento che noi abbiamo un po' rincorso in questo periodo, ma siamo particolarmente felici che ci sia stato attribuito, in quanto il territorio della Conegliano Valdobbiadene, la parte diciamo, superiore rispetto al Prosecco complessivo, in questi anni è cresciuta non soltanto dal punto di vista del prodotto, ma anche dal punto di vista dell'accoglienza, dal punto di vista del territorio. E ci fa piacere essere, tra l'altro, successori dal punto di vista temporale rispetto a Marsala, che fu a suo tempo, ma c'è stata Jerez de la Frontera e l'ultimo Regengos in Portogallo. Quindi non solo una città ma un territorio, questo è sicuramente un valore aggiunto e riconoscimento che va a celebrare, come lei ha detto, il prodotto ma anche di fatto l'indotto, è questo che va a segnalare un premio del genere, giusto? Beh, credo innanzitutto che la scelta su di noi sia caduta anche proprio perché abbiamo fatto una proposta un po' diversa ed è quella di mettere insieme le realtà. Sono 15 comuni, sono quelli che sono compresi nell'ambito territoriale della Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene e credo fosse questo un po' un valore aggiunto rispetto ad altre candidature. Certamente questi territori, grazie al vino, grazie a prodotti che si fanno conoscere nel mondo, riescono a essere anche attrattivi. Io ho un mio modo di vedere il vino, no? Sì. Il vino è stato nel tempo, se andiamo indietro nei secoli e quindi nella notte dei tempi, è stato sicuramente alimento, poi è diventato bevanda, poi c'è stato quel momento del metanolo che poteva far morire questo settore, in realtà l'ha fatto risorgere un po' come la fenice ed è venuto fuori quello che è oggi. Oggi il vino è, secondo me, la poesia della tavola. Quindi è bello immaginare che qualcuno vada a vedere dove il poeta si è ispirato. Saranno quindi 15 comuni, tante piccole capitali della cultura enologica, saranno loro i grandi protagonisti di questa città europea del vino 2016, un anno intero con tantissime attività culturali proposte. Conegliano-Valdobbiadene.it il sito, che sarà online a giorni, appunto, con l'intero calendario delle manifestazioni. Grazie sindaco, buon lavoro, buon anno. Grazie a voi, buon anno. Big city life, me try forget my pressure, now ease up no matter what me try. Big city life, in my heart have no base, and right now Babylon upon me case. Big city life, try forget my pressure, now ease up no matter what me try. Big city life, my heart have no base, and right now Babylon upon me case. Una manciata di minuti, ma il tempo necessario per chiudere con una di quelle storie che mi piace raccontare, di chi sceglie altre facce dell'Europa e sceglie di raccontarle in chiavi diverse. Spesso è la fotografia, però sappiamo che la fotografia è un linguaggio che ha mille declinazioni. Diamo il benvenuto a Thomas Tozzi, giovanissimo giornalista, fotografo e fotografo freelance. Il suo sito è thomastozzi.com e ha dato vita a questo progetto City Europe. Ciao Thomas. Ciao Federico, buongiorno. Allora, tu vieni dal Molise, hai visitato, sì, 25 città europee per, esatto, raccontare che di fatto l'Europa è un'unica sola grande città. Sì, sì, esatto, ho fatto questo lavoro, ho durato 3 anni circa in giro per l'Europa, ho attraversato, appunto, come hai detto tu, 25 paesi per raccontare quello, cioè da un punto di vista un po' diverso, quello che è il mio sguardo sull'Europa. Non ho voluto diciamo raccontare l'Europa così come magari può essere quella del classico viaggiatore che gira e racconta luoghi, ma sì, invece ho voluto raccontare l'Europa attraverso quella che è la gente. Cioè, che poi è quello che ho voluto fotografare, cioè la gente, gli individui che popolano le città. E mi è piaciuto, ho voluto immaginare l'Europa come un'unica grande città. Difatti il lavoro è proprio così che si chiama, il titolo è City Europe, quindi città Europa. E niente, appunto, la città diventa un'unica grande metropoli, cioè tutte le città diventano un'unica grande metropoli all'interno del quale, appunto, vivono centinaia, migliaia, miliardi di persone. Thomas, proprio, tu sì, vieni dal Molise, da un piccolo paese, sì, piccolo, credo, esatto, che, sì, che si chiama Casa Calenda. Casa Calenda, adesso, esatto, ho detto piccolo, ma non voglio offendere nessuno, adesso non conosco il comune, quindi è proprio un villaggio di 2000 anime. Ok, perfetto, ci sta, piccolo. E com'è affrontare un villaggio così grande come l'Europa? Con che spirito ti sei avviato a fare questo viaggio? Sì, guarda, questa è stata proprio la cosa più bella, cioè io ho vissuto sempre qui, poi sono stato a Roma e da lì è partito il mio viaggio in giro per l'Europa. Sono sempre stato affascinato da quella che è la città, che può essere la città, perché ovviamente a differenza del paesino offre migliaia di spunti in più, no? Cioè ci sono molte cose più magari da raccontare, perché ci sono più facce, diciamo, la città ha più facce rispetto a quelle che può avere un paesino, ed è stata proprio questa una sorta di sfida, cioè venire fuori da quelle che sono sempre state le mie origini, il mio modo di vedere il mondo, e poi ritrovarmi appunto in giro per l'Europa da solo per 3 anni e raccontare la città, cioè è stata proprio una bella sfida per me innanzitutto. C'è poi quello che è venuto fuori, il lavoro può piacere non piacere, però è stato comunque una sfida per me, questa è stata poi la cosa più importante, diciamo. Thomas, hai visto pezzi d'Europa, l'hai respirata questa strana atmosfera, sì, questa strana suggestione che definiamo, sì, Europa. Poi, l'unica cosa, io poi andando avanti con il lavoro, quello che più mi è rimasto, diciamo, cioè quello che ho notato, diciamo, che molti, con io ho attraversato proprio i paesi dell'Unione Europea, quindi ho attraversato paesi, soprattutto molti paesi del nord Europa, le capitali in particolare, le ho trovate l'unica cosa molto molto simili, cioè nel senso le trovo molto molto uguali, poi le persone che le visitano magari sono sempre le stesse, nel senso no, ho notato poche differenze, cioè se prendi città magari del nord Europa come, non so, Copenaghen, Vienna, tutti questi paesini, Praga, Amsterdam, cioè le trovo tutte molto molto simili. E quindi proprio per questo motivo poi ho voluto racchiuderle tutte in un'unica grande città. So che le foto vanno viste, non vanno raccontate, so che anche la tua, esatto, idea, sì, ovviamente il radio è un po' diverso. ThomasTosti.com, sì, il sito per conoscere il tuo lavoro, ma c'è una foto che più delle altre secondo te racconta questo tuo viaggio? No, una in particolare no, ce ne sono tantissime, come puoi immaginare le foto sono tantissime, ovviamente frutto comunque di una lunga selezione, e invito appunto magari tutti quanti a dare un'occhiata, perché guardando le foto si può capire meglio il lavoro, c'è un gioco di luce e ombre, in particolar modo ho lavorato sulle ombre, quindi cercando di isolare quello che è appunto il soggetto che vive la grande città. E niente, sì, no, in particolare non c'è una foto. E c'è una foto che non sei riuscito a fare, cioè sei tornato a casa dicendo accidenti, manca proprio. Sì, sì, cioè quello succede sempre. Io prima di raggiungere ogni città, insomma, avevo in mente magari posti dove andare e scattare un certo tipo di foto. Ovviamente in ogni città poi c'erano delle sorprese, nel senso ci sono state città in cui sì, dove poi sono riuscito a fare più di quello che avevo in mente, città in cui dove magari non sono riuscito a fare quello che avevo in mente, però proprio per questo motivo in alcune città sono tornato anche 2 o 3 volte, tipo Berlino, magari da Berlino mi aspettavo tanto e la prima volta non sono riuscito a fare niente, così sono andato 2 o 3 volte, insomma, in modo che qualcosa tiravo fuori. Grazie, poi Tom. Mi serviva a tirar fuori quelle 2 o 3 foto, sì, insomma, assolutamente. Non di più. Grazie, buon sabato, ciao. Grazie mille, ciao, buona giornata. Ciao. E con questo ultimo racconto chiudiamo la puntata dell'Altra Europa, un grazie a tutta la squadra, Paolo Corleoni oggi la parte tecnica, Claudia Schiattone in assistenza, Miriam Lucchetti e Silvia Righini con me hanno scritto la puntata. Radio24.it è il sito, l'appuntamento lo sapete, e a sabato prossimo. Ancora ciao da Federico Taddia. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.